Incontri di Gianfranco Fabi. Certamente riconosciute sono le note della saga della primavera di Stravinsky, e con queste note iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti sono con noi e buonasera al professor Renato Ugo. Buonasera. Professor Renato Ugo, presidente dell'Associazione Italiana Ricerca Industriale, una lunga carriera come docente, come ricercatore impegnato nelle imprese, ma cominciamo da Stravinsky, la strada della primavera. Che nesso c'è tra queste note, tra questo balletto e la ricerca industriale? La saga della primavera ha un ritmo, è stata una delle musiche che ha rotto nell'inizio del Novecento, così, quindi la ricerca è un fattore di rottura, un fattore di innovazione, un fattore di trasformazione, e deve avere ritmo. Deve avere ritmo, deve avere una deve passione, avere una capacità. Passione e ritmo, perché la ricerca nasce sul ritmo, e sulla tempificazione, sul raggiungimento del risultato. E questa musica io penso che rappresenti abbastanza bene questa necessità di un certo ritmo, di uscire fuori dal tran tran per andare su dei meccanismi di innovazione che rompano veramente l'esistente. Ecco, che rompano un po' magari anche certi luoghi comuni. Il luogo comune è quello che in Italia non si fa ricerca, forse se ne fa poca, però ricerca se ne fa, se ne è fatta. Io penso che sia un luogo comune che in Italia non si fa ricerca. In Italia si fa ricerca, ma la si fa male, magari come organizzazione, come struttura. L'italiano è spontaneamente portato alla ricerca, perché, ma lo fanno in termini individuali, cioè noi prendiamo il singolo ricercatore, e l'abbiamo visto anche dalla competizione internazionale. I ricercatori italiani, per quanto abbiano pochi soldi in alcuni settori, pubblicano, sono sesti al mondo nelle pubblicazioni, sesti, quinti, quarti. Se andiamo a vedere i finanziamenti invece che vengono dati così, siamo 26esimi, 30esimi. Quindi c'è un'efficienza creativa, io la chiamo efficienza creativa dell'italiano, che compensa un po' la mancanza di soldi, che compensa la mancanza di strutturazione e di soldi. Due sono i fattori: uno, i soldi, perché la ricerca richiede soldi. Particolarmente la ricerca più moderna, che richiede strumentazioni estremamente sofisticate, costose, e richiede anche un lavoro di gruppo. Non c'è più un ricercatore singolo, sempre di meno è un lavoro di gruppo. Secondo, richiede un'organizzazione, e lì è il problema, in realtà è un problema italiano, che hanno l'industria, che hanno tutta la struttura italiana. Ecco, l'Italia che ha perso un po' le grandi industrie avevano contrassegnato un po' gli anni del miracolo economico, anche sotto il profilo dell'industria ad alta intensità di ricerca, come l'industria chimica, dove lei è stato protagonista peraltro per molti anni. Beh, noi con l'industria chimica, quando io ero nell'industria chimica, eravamo fra i primi al mondo, quindi il problema è, questo è stato un grave problema, perché non c'è dubbio che la ricerca è fatta dagli organi strutturati come le università, gli enti pubblici, la ricerca d'avanguardia, però la ricerca degli grandi enti è anche questa una ricerca di avanguardia, ed è nello stesso tempo una grandissima scuola. Quindi sono venute a mancare come queste scuole tecnologiche, o perlomeno si stanno diradando queste scuole tecnologiche, in cui si venivano formate dei personaggi che univano la ricerca con la capacità di fare, che un'altra cosa. Cioè, certo. C'è una bella differenza. Normalmente la gente non riesce a capire la differenza tra fare ricerca, cioè fare inventare, avere creatività, e trasformare la ricerca in fatti o in prodotti, processi, servizi. E questo è lo sviluppo tecnologico, che sono due cose completamente associate, ma completamente differenti come gestione, come maniera di fare. E noi in Italia siamo bravi in tutte e due. E noi siamo particolarmente bravi nello sviluppo tecnologico, perché abbiamo una tradizione di di piccoli operai, di artigianato. Questa capacità di artigianato, in fin dei conti, sotto molti aspetti è stata l'origine di tutta l'industria italiana, la piccola e media industria. E quindi... Ecco, ma in questa prospettiva l'associazione della ricerca italiana, di cui lei è presidente da molto tempo, da più di 20 anni. Ma io sono un presidente bulgaro, mi chiamo, è così. Quindi, però appunto, qual è la finalità di questa associazione? Come si muove, che difficoltà incontra nell'ambito italiano? Ma l'associazione è nata principalmente nacque negli anni 70 principalmente per unire i ricercatori, cioè perché si incontrassero e mettessero in evidenza i problemi di come sviluppare la ricerca industriale, quindi una ricerca applicata, una ricerca che tende a far tecnologia, ma che è sempre ricerca, quindi per cercare di mettere insieme conoscenze, competenze, problemi di gestione, problemi di management, problemi di finanziamenti, quindi anche una piccola azione di lobby. Diciamo di lobby, ma è una lobby un po' diversa dalla lobby che può avere le grandi associazioni industriali, così, ma una lobby fatta più di concetti che di però alla fine finisce sempre a chiedere più soldi, però questo è logico che una lobby chieda per maggiori risorse. Però i risultati non sono entusiasmanti nell'ultimo documento di programmazione economico e finanziaria, del documento del DEF, la ricerca è un po' in secondo piano, no, forse il terzo. Non c'è. Personalmente direi che non c'è. Quello che sorprende, questo c'è un sistema, se noi guardiamo la posizione governativa degli anni Ottanta, c'era una forte attenzione per la ricerca. Gli anni Ottanta sono stati anni in cui venivano fatti delle leggi fondamentali, dei decreti legge fondamentali che hanno dato un contributo. Ovviamente ormai sono invecchiati. Nel 2000, dal 2000 in poi, particolarmente quando siamo entrati nell'Unione Europea, c'è stata una minore attenzione. Stranamente, io te dico sempre, quando noi siamo entrati nell'Unione Europea, e siamo entrati in un sistema competitivo, noi dovevamo capire che la tecnologia era un fattore competitivo importantissimo. Se non facevamo tecnologia, se non adattavamo i nostri processi produttivi alla competizione, perché non potevamo avere più le svalutazioni competitive, noi avremmo sofferto. Questo non è stato assolutamente considerato. Ecco, ma forse si è pensato che potesse supplire l'Unione Europea a quello che non faceva l'Italia. Molti fondi per la ricerca sono fondi europei. Teniamo un po' i numeri, guardiamo i numeri bene. I fondi europei oggi per la ricerca sono 80 miliardi in 3 anni. Ora, se noi andiamo a vedere cosa spende tutto il sistema di ricerca industriale dell'Europa, questi numeri sono alla fine dei conti il 5%. Quindi, ecco, 80 miliardi per tutta l'Europa. Per tutta l'Europa. Se noi guardiamo la ricerca industriale in tutta l'Europa, in realtà l'Unione Europea gioca per il 5%. Però può capitare anche che l'Italia non riesca ad avere neanche i pochi soldi che l'Europa potrebbe destinare alla ricerca. Allora, questo è un problema che è appena uscito proprio sul Sole 24 Ore, un bellissimo articolo in cui faceva vedere che ogni anno noi perdiamo teoricamente 300 milioni. E non sono piccole cifre per la ricerca industriale, e ovviamente l'ARI è estremamente interessata a questo punto. Ma allora viene la domanda: come mai noi come ricercatori ci posizioniamo come pubblicazioni in posizioni molto buone e quando poi andiamo in Europa invece siamo gli ultimi? Allora c'è un problema fondamentalmente di essere poco presenti in Europa come lobby a tutti i livelli, sia governo sia industrie varie, sia anche enti pubblici di ricerca, e quindi non avere la capacità di pressione. Secondo, non abbiamo mai avuto una tradizione di scrivere dei progetti infragruppo o infranazioni. Noi abbiamo industrie molto piccole che non sono strutturate per fare progetti che dal punto di vista burocratico sono molto difficili sia da scrivere che da gestire. Le nostre università non hanno mai fatto, stanno incominciando soltanto adesso a creare degli uffici specifici che aiutino i ricercatori a preparare queste domande. Quindi noi, la qualità delle nostre domande non sono adeguate alla qualità richiesta. Ecco, magari nella seconda parte del nostro incontro parleremo dell'università, parleremo dei giovani, parleremo delle possibilità che hanno i giovani in questo ambito, ma vorrei chiudere questa prima parte con una domanda proprio riguardo alla Associazione Italiana Ricerca Industriale, di cui Renato Ugo appunto è presidente. Pensa che ci sia ancora un grande futuro per questa associazione, che abbia ancora un grande compito da svolgere? Ma questa associazione ha un compito di opinion leader e di spingere continuamente l'attenzione del governo del paese per la ricerca e per la ricerca industriale. Cioè, questa associazione vuole fare capire che se noi non immetteremo nelle nostre strutture industriali gli aspetti più avanzati della ricerca, noi perdiamo un'occasione per aumentare. Ed è quello che cerchiamo di fare anche questa sera, di sollecitare appunto l'attenzione su questi temi con il professor Renato Ugo, presidente della Associazione Italiana Ricerca Industriale. Ritorniamo tra pochi minuti, grazie. Incontri. Ancora con le note della saga della primavera di Stravinsky riprendiamo il nostro incontro con Renato Ugo. Renato Ugo è presidente dell'Associazione Italiana Ricerca Industriale, ha avuto una lunga esperienza nell'ambito della docenza appunto di materie legate alla ricerca e nelle grandi imprese italiane, in particolare nell'industria chimica. Peraltro Renato Ugo è stato ed è ancora membro del direttivo di Federchimica. Quindi ecco, io ripartirei proprio dalla chimica. Abbiamo parlato dei problemi generali della ricerca, abbiamo parlato appunto dell'Italia che non riesce a sfruttare le potenzialità che ha grandi potenzialità, soprattutto dal punto di vista umano. Ecco, quando si parla di ricerca adesso si pensa molto all'elettronica, all'informatica, alle telecomunicazioni, ma c'è ancora ricerca da fare nel campo della chimica? Ma la chimica, teniamo conto che l'industria chimica è una delle industrie che ha la maggiore percentuale di spese di ricerca rispetto al fatturato, ovviamente. Perché è un settore industriale ad altissimo contenuto tecnologico e la chimica assorbe le innovazioni tecnologiche che vengono da tutti i settori. Ecco, ormai la ricerca deve essere multidisciplinare, deve anche tener conto delle applicazioni in altri settori. Sì, sì, ma la chimica ormai sta diventando una chimica che non è più quella che conoscevo io da ragazzo, che ho tanto meno quando sono stato alto dirigente industriale. La chimica adesso si è volta più che altro al servizio del cliente. Cioè, mentre la chimica imponeva il prodotto al cliente negli anni, le materie plastiche per esempio, oggi la materia plastica viene fatta su richiesta delle proprietà che richiede il cliente. Quindi è un ritorno quasi allo speziale tradizionale, all'uomo, alla chimica dell'Ottocento, cioè rispondere alle necessità del cliente. Quindi richiede una gran flessibilità e grande innovazione, perché il cliente chiede delle cose stranissime. E su questo noi italiani abbiamo un vantaggio. Infatti la chimica, io ho scritto un piccolo commento, ho detto il rinascimento della chimica italiana. Tant'è vero che se noi guardiamo la chimicosetta verde, noi vediamo che le industrie italiane, che è la chimica nuova, chimica delle sostanze naturali trasformate in prodotti chimici di grande consumo, oppure in energia, vediamo che l'industria italiana sta rinnovando tecnologie e si sta posizionando posizioni di prevalenza. Ecco, quindi consiglierebbe a un giovane anche di iscriversi a ingegneria chimica? C'è ancora spazio e potenzialità in Italia e all'estero? Ma chimica industriale, ingegneria chimica, i nostri laureati trovano posto subito, perché c'è una richiesta. Ormai il chimico è diffuso, uno per i problemi ambientali, ogni industria c'è un chimico che gli segue un pochino i problemi ambientali, i problemi di sicurezza. E poi secondo, appunto perché vengono richieste queste proprietà, voi avete un'industria del mobile, l'industria del mobile ha bisogno di un chimico che capisca i nuovi materiali e ne capisca l'utilizzazione per fare questi mobili moderni. Abbiamo visto quanto i materiali adesso nei mobili moderni stanno diventando importanti. Io ho sempre detto che il chimico è l'ingegnere della materia, cioè è quello che a seconda della richiesta ti dà una risposta. Ecco, la chimica può anche rispondere positivamente, appunto, come diceva, alle esigenze di rispetto ambientale, di valorizzazione della natura, quindi non è solo l'alchimista che cerca appunto di mettere insieme degli elementi per farne qualcosa di diverso. Sì, noi abbiamo questa brutta immagine della chimica che inquina, la chimica. Certamente c'è stato un passato che non si rendeva conto di quello che faceva. La chimica, oggi come oggi, in realtà ha i mezzi dentro la chimica di impedire e di migliorare la situazione ambientale del paese. E il fatto che abbia sviluppato questa chimica sostenibile viene chiamata chimica sostenibile, appunto quella chimica che risponde a certe caratteristiche per cui l'incidenza sul territorio, l'incidenza sulla salute, è diventata minima e sotto controllo. Non a caso ai nostri studenti, io personalmente adesso, anche se sono un professore emerito, tengo sempre gli studenti del dottorato di ricerca in chimica industriale due lezioni sul valore della chimica sostenibile, come può essere il cambiamento della struttura dell'industria chimica avendo un obiettivo di sostenibilità. Ed è bellissimo perché lì c'è un sacco di ricerca. Ecco, una ricerca quindi che è anche a servizio poi dei bisogni quotidiani, quindi in cui l'Italia può avere uno spazio anche nell'alimentare. Adesso siamo in periodi Expo 2015, appunto, quindi con questa logica la chimica può essere a fianco e non sovvertire l'ordine delle cose. La chimica è certamente a fianco. È inutile che ricordi che se la chimica non avesse inventato negli anni 20 i fertilizzanti, noi avremmo adesso un problema di fame nel mondo terrificante. Poi ce n'è un po' abusato magari su certi fronti. Beh, ma perché è come sempre, quando c'è un'innovazione, è la fame dei soldi. Certo. La fame dei soldi è in poco tempo impedisce la gestione corretta dell'innovazione. Il fatto che si venga spinto il contadino a fertilizzare 5 volte più del necessario ha certamente prodotto. Però se noi pensiamo al futuro, io penso che la chimica in questo momento sta facendo dei prodotti. Per esempio, c'è tutta una riscoperta di prodotti naturali che hanno un'azione di agrochimici. Sì, c'è anche una riscoperta dell'agricoltura. Allora, senso... questa agricoltura adesso richiede molta tecnologia. Richiede tecnologia la trasformazione dei prodotti agricoli, perché prodotti quando vengono trasformati hanno un forte contenuto tecnologico e spesso sono ingegneri chimici quelli che fanno andare gli impianti. Ma seconda causa, c'è tutta una formulazione del prodotto, ovviamente fatta in una maniera opportuna, che permette e guardiamo anche l'altro fatto, il packaging per esempio, la trasformazione che sta avvenendo il packaging è la chimica che guida continuamente come ottenere un packaging e come tenere sempre di più un packaging rispettoso dell'ambiente. Teniamo conto dell'effetto delle plastiche biodegradabili rispetto a quelle precedenti, e quello è stato pure vera ricerca chimica, e mi permetto di dire ricerca chimica italiana. Quindi ecco, la biodegradabilità, che è un elemento essenziale rispetto appunto a un uso intensivo della plastica che era particolarmente inquinante in passato e lo è ancora in parte. Sì. Ecco, da questo punto di vista anche le leggi aiutano questo processo di salvaguardia in fondo della natura, oppure anche l'Italia su questo fronte è un po' in ritardo? No, io direi che in Italia le leggi sono molto rigide, no? Direi da questo punto di vista noi abbiamo, grazie a cielo, abbiamo pochi record, ma questo è certamente l'abbiamo ed è un bene. Ecco, Renato Ugo, presidente, ricordo, dell'Associazione Italiana della Ricerca Industriale. Se non avesse fatto il ricercatore, che cosa avrebbe voluto fare? L'archeologo, che è sempre una ricerca anche questa. Sì, ma è bellissima. È una ricerca del passato più che del futuro. Ma anche del futuro. Io sono appena andato a vedere questo bellissimo museo d'Egizio proprio l'altro venerdì. Sì, il nuovo museo d'Egizio a Torino. Nuovissimo, no? E andando a vedere quello che veniva fatto dal punto di vista artigianale, e lei vede quanta tecnologia. Guardi lo smalto, per esempio, della maschera di Tutankhamen, ma lei sa quanta tecnologia c'erano in quegli smalti. Allora, se lei va a vedere cosa c'erano dentro questi smalti, ci sono delle nanoparticelle di argento. E nessuno sapeva che facevano delle nanoparticelle di argento, che dà il colore azzurro, fortissimo dello smalto. Quindi c'è la tecnologia anche nelle piccole cose, così come c'era nelle grandi, perché anche per costruire le piramidi ci voleva una tecnologia particolare. Addirittura la tecnologia meccanica, uno si chiede come facevano, avevano inventato le classiche che, su cui sono ancora basate le macchine meccaniche, solamente che non erano automatizzate, erano tenute dall'uomo, ma la tecnologia è sicuramente il motore di sviluppo dell'umanità. Questo fa ricordare per esempio Leonardo con la sua capacità. Beh, Leonardo, che è l'esempio italiano della... se lei va a vedere la mostra di Leonardo appena fatta adesso qui a Milano, sì, Palazzo Reale, lei vedrà che Leonardo è stato sì un grande pittore, è stato certamente ma è stato fondamentalmente un grande ingegnere. Certo. Un grande ingegnere e un grande ideatore di meccanismi di costruzioni. Un personaggio che veramente rappresenta questa capacità che gli italiani hanno sempre avuto. Perché gli italiani, in generale, nella ricerca industriale si trovano molto bene, perché hanno queste capacità di fare che tipicamente, che ci viene dai romani, questa capacità delle nostre capacità rinascimentali di fare, e nello stesso tempo siamo creativi. Quindi siamo talmente creativi che ogni tanto ci creiamo dei problemi noi, però molto spesso. Ma questo è tipico degli ipercreativi, ecco. Però se l'unica cosa di cui non sappiamo, forse non siamo abbastanza critici e non siamo critici, noi dovremmo capire le nostre potenzialità e cercare di sfruttarle al meglio senza cercare di creare delle infrastrutture. Gli italiani messi dentro delle grandi infrastrutture si muovono con difficoltà, ma credo che sia un fatto culturale. Entrare dentro le infrastrutture, per questa è una delle ragioni per cui falliamo a Bruxelles, posso dire, è anche una di queste, però noi vedremo di migliorare. Beh, in Italia quando c'è un problema si fa un comitato, quindi più che... O si fa un tavolo. O si fa un tavolo, si apre delle trattative. Alla parola tavolo inorridisco. Grazie professore Dato Ugo, presidente dell'Associazione Italiana di Ricerca Industriale, di essere stato con noi questa sera. Ringrazio anche quanti ci hanno seguito. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it, può essere anche commentato. Mettete i vostri commenti che saranno certamente utili. Ringrazio anche Paolo Corleoni in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Incontri è per domenica prossima. Grazie e buona serata.